Ciao. Sì, lo scopo dell'intervento in effetti è proprio, cioè non è aumentare la paranoia, che mi sembra sia già abbastanza elevata in tutti noi, ma cioè perché un po' il rischio, no, è quello che è. Qui, appunto, come dicevi, sembra che ci sia questo perenne panottico che appunto ci blocca. E quindi poi alla fine ci ritroviamo quasi in uno stato mentale in cui pensiamo che qualsiasi cosa venga registrata, sorvegliata, controllata, e questo un po' secondo me invece è deleterio rispetto alla nostra possibilità di agire sul reale. Invece lo scopo dell'intervento è appunto cercare di avere una sorta di consapevolezza rispetto a quello che succede poi nella pratica attorno a noi. E diciamo che questi interventi di autodifesa digitale noi li portiamo avanti da un po' di tempo come ACLAB di Torino. Noi facciamo una piccola introduzione che cacchio facciamo nella vita, smanettiamo con le tecnologie perché ci piace un sacco. Però poi nel corso del tempo abbiamo anche deciso di fare delle cose che avessero anche un senso nel contesto in cui ci troviamo, e quindi ci siamo accollati un po' di responsabilità e accollate nel tempo. Ci gestiamo un server autogestito con un po' di servizi che si chiama cisti.org, c'è cioè il PAD che è uno strumento per creare documenti in maniera collaborativa. Poi c'è, insomma, abbiamo un po' di servizi, c'è Gancho con un'agenda condivisa, qua a Milano esiste puntello.org che l'hanno preso da noi. Abbiamo una trasmissione su Radio Blackout che va in onda tutti i mercoledì mattina alle 11:30, alle 11 a mezzogiorno e mezza, che si chiama Stacca Stacca, dove blateriamo di questi altri temi. E poi vabbè, ci occupiamo anche appunto di curare un po' la parte tecnica della radio, che non è banale. E tra questi accolli che ci sono arrivati nel tempo, ultimamente ci sono anche arrivate un po' di richieste negli ultimi anni di fare un po', in questo caso l'operazione Scintilla, delle controperizie rispetto alle indagini processuali che sono avvenute. E poi appunto ogni tanto andiamo in giro anche a chiacchierare di queste e altre cose. Oggi appunto vi parlerò un pochino, questo è un intervento che ho riciclato un paio di volte, che parte appunto da, cioè come dire, c'è un'argomentazione rispetto alle cose che possiamo dire, quali strumenti noi abbiamo, quali metodi si possono mettere in campo per cercare di un po' rendere più complesse le operazioni, più economicamente difficili da sostenere le operazioni del nemico, tra 70 virgolette. In questo caso, appunto, abbiamo delle prove, no? Cioè sappiamo il perché di quello che diciamo, perché abbiamo nel tempo siamo riusciti a recuperare effettivamente molte carte. Da cui appunto si può evincere quali sono effettivamente le tecniche che vengono messe in campo dalla nostra controparte. In particolare in queste slide usciranno fuori degli spezzoni che sono presi dalle carte di Scintilla, che è un'operazione di cui io non vi parlerò. Forse se qualcuno vuole accennare in 2 minuti che cos'è che è successo, però in sostanza si parla di una grossa operazione che è avvenuta nel 2020, giusto? 19. Inizio, sì, febbraio 2019, che ha portato a tutta una serie di conseguenze molto pesanti per alcune persone, molto pesanti per alcuni pezzi di città a Torino, tra cui appunto anche lo sgombero dell'asilo. Che è partita con un'indagine su un reato molto pesante, che è il 270 bis, un reato associativo, insomma, di una certa rilevanza. E quindi questo per dirvi, questo è il non plus ultra, secondo me, di questi ultimi anni, anche in termini di spese giustificabili da parte dell'apparato repressivo. Vuoi dire due minuti cos'è, cioè per dare un po' una cornice rispetto a questa, se non vuoi no? Non so se... vabbè, sì, vabbè, hai già detto, è un'operazione che per lo più ha colpito la lotta CPR, una lotta che si portava avanti da tempo in città. C'è stato questo tentativo, c'è stata questa associazione a 270, non era 280 bis. C'era appunto il tentativo di costruire questo associativo, questo reato associativo che coinvolgeva varie persone. Queste persone poi sono aumentate nel corso del tempo, al momento in cui, diciamo, è scattata l'operazione sono finite in carcere 6 persone, una compagna non è stata trovata, è rimasta latitante 1 anno e mezzo, e poi a questi compagni se ne sono aggiunti altri, e per lo più diciamo che oltre a colpire tutta una serie di strumenti che la lotta si era data, come il telefono delle espulsioni, che era il cellulare con cui si sentivano le persone recluse, tentavano di accollare a questi compagni e o all'associazione tutta una serie di azioni che erano state compiute negli anni precedenti, diciamo negli ultimi 6-7 anni, che coinvolgevano, che andavano ad attaccare, diciamo, quella che è la cosiddetta macchina delle espulsioni a livello un po' più esteso, quindi non solo il CPR, ma chi lo gestisce, chi lo finanzia, chi lo gli fa le ristrutturazioni, chi ci porta il cibo. E il processo è ancora aperto, l'associativo è caduto diverse volte già nell'udienza di riesame avvenuta 2 settimane dopo, e al momento la sentenza in primo grado ha portato la condanna più grave, su cui secondo me, anche pensando alla lotta CPR, bisognerebbe tenere presente, è alla fine questo reato di incendio che è stato collato a una compagna, ha chiuso l'indagine, nel senso che non c'era all'inizio, e a partire proprio da alcune intercettazioni telefoniche con l'utenza del telefono delle espulsioni, di 3 anni. E c'è stata poi un altro compagno che è stato condannato a 4 anni per dei reati specifici legati appunto, se non erro, appunto all'invio di un plico alla posta di Genova, se non sbaglio, non ricordo quale posta fosse, comunque è stato condannato a 4 anni, l'impianto accusatorio per lo più è caduto, cioè l'associazione è caduta, e le altre persone sono state condannate, qualcuno è stato assolto, e le altre a 1 anno più o meno, mi sembra, per istigazione a delinquere, per alcuni scritti che erano apparsi sia sul blog di Macerie, sia sul circolare, diciamo, in rete. Diciamo che cercherò più o meno di raccontarvi cosa si evince dalle carte in una prima parte, e poi cercheremo un po' di analizzare quali potrebbero essere delle contromosse efficaci, senza immaginarci appunto i rettiliani, nel senso che questa è anche una mia grande paura, no? Che quando si parla appunto di autodifesa digitale, poi uno va sempre a immaginarsi delle cose molto improbabili statisticamente, no? Come oddio, mi hanno infettato il computer e poi col telefono, quando poi invece tutti noi facciamo delle cazzate molto più macroscopiche. Ho diviso i tipi di attacchi che sono stati messi in campo in attacchi remoti, cioè attacchi che è possibile fare da lontano, quindi non in presenza, e attacchi locali, sempre appunto guardando come vengono fatte queste operazioni. Il primo attacco grosso che possiamo analizzare dalle carte è quello con la complicità degli operatori telefonici, cioè cosa succede quando vengono aperte delle indagini che implicano, come spesso succede, l'uso di telefoni per chiamarsi o per, insomma, comunicare con, soprattutto quando ci sono dei reati associativi, vengono interpellati gli operatori telefonici, quindi la polizia giudiziaria manda, ci sono proprio delle autostrade, ci sono dei canali privilegiati e dei protocolli standardizzati, per cui c'è proprio un form sul sito della TIM, della Vodafone, di Fastweb, per cui tu, polizia giudiziaria, puoi dire: ho bisogno di questo. Che questo è di solito due tipologie di operazioni: i metadati di delle telefonate effettuate in un lasso di tempo molto ampio. In Italia gli operatori sono obbligati a mantenere tutto il traffico telefonico degli ultimi 5 anni, i metadati, quindi si può tirare fuori chi ha telefonato, a che ora, a che numero, da che cella. Fondamentalmente questi sono i dati degli ultimi 5 anni. E questa è stata proprio la richiesta fatta in questo caso. Per Scintilla, che è appunto questa operazione qui, sono stati richiesti questi 5 anni, cioè i tabulati di 5 anni di circa una cinquantina di persone. Quindi vi potete immaginare la mole di dati che è stata dovuta consegnare. Questa operazione qui costa pochissimo, cioè il provider si fa pagare molto poco perché è una cosa che ha un costo irrisorio, si parla veramente di 1 euro a numero per chi all'anno, quindi non è un'operazione che ha un impatto economico di nessuna rilevanza fondamentalmente, e funziona che appunto il PM, in questo caso la simpatica signora, manda appunto questo provvedimento con scritto: guarda, tu mi devi mandare dal giorno 24 febbraio 2015 al giorno 24 febbraio 2020 tutto, le celle agganciate, gli intestatari delle utenze chiamate e chiamanti di questo numero di telefono, che qui io non ho messo per evidenti ragioni, però questo è quello che ti risponde davanti a questo foglio, la Vodafone, la TIM, Fastweb, eccetera. È un foglio così, ho scritto: ok, in questo periodo di tempo il numero, quello lì, ha fatto, è una svagonata di, dice scritto, pagina di 490 pagine, no? Una svagonata di pagine tipo in ogni formato che voi vi potete immaginare. Questo è solo di un numero di telefono con questi dati, quindi c'è il chiamato, il chiamante, data, ora inizio, data, ora fine, il tipo di interazione, dopo vediamo cos'è, ma già ve lo potete immaginare, altri due numeretti che sono l'email e l'INPSI, e poi il ripetitore, cioè qual era la cella da cui è avvenuta questa comunicazione. Quei due numeretti lì sono l'identificativo, uno del telefono e uno della SIM. Quindi questi sono i metadati che tutti i provider italiani sono tenuti per legge a mantenere negli ultimi 5 anni di tutti i nostri telefoni. Quel tipo, che è appunto un dato numerico, lì si vede 666 6117, sono i tipi di comunicazione che sono stati effettuati. Quindi uno è, che ne so, chiamata in entrata, chiamata in uscita, SMS in entrata, SMS in uscita. Ce ne sono una svalangata, no? Vodafone ne ha tipo una settantina, fax, perché si possono mandare i fax col telefono, sappiatelo. Quindi appunto sono questi enormi tabulati da cui vengono fuori appunto queste informazioni. Nel caso specifico, poi cos'è che uno cerca per un'indagine? Almeno quello che noi possiamo capire poi da quello che è successo in fase processuale, però il punto è che non è che uno va in generale da quello che mi è sembrato di capire, cercare una telefonata specifica, no? A meno che appunto non ha bisogno di scoprire che tu effettivamente in quel lasso di tempo ti trovavi effettivamente lì, e quello io lo posso sapere più o meno con un margine di incertezza perché il tuo telefono era attaccato a quella cella, no? Solo quando c'è effettivamente una comunicazione, cioè non è in tempo reale, no? Ok? In questo caso, con i metadati. Quindi, che cosa hanno cercato loro da questi dati nelle carte? In generale, vabbè, orari di comunicazione in giornate specifiche, frequenza dei contatti, perché tu, se hai bisogno di dimostrare un reato associativo, devi dire chi sono i membri di questa associazione, quindi devi dire in qualche maniera che c'è una frequenza più elevata di contatti tra questi numeri di telefono, no? Questa era una delle tesi, che siccome tra questi numeri di telefono teoricamente ci sarebbe dovuta essere più frequenza di comunicazione, allora questa è evidentemente un'associazione, soprattutto nelle giornate in cui si ipotizzava il reato, no? e anche appunto ricostruire reti di relazioni, perché immagino che se io ho una relazione sentimentale con una persona ho una frequenza di comunicazione molto più elevata rispetto, no, a una persona X. Ovviamente con questa mole di dati si possono trovare tante cose che magari dalle carte non si evincono, però si possono, ad esempio, si può immaginare di trovare anche le abitudini comportamentali, cioè io posso anche sapere quanto è più chiacchierone una persona rispetto a un'altra, perché guardo in media quanto sono lunghe le sue telefonate, oppure quanto parla più della media, no? O quanto si sveglia prima. Questi sono due aggregati di traffici di due persone diverse. Sicuramente la prima persona, quella blu, si sveglia prima e al mattino è molto interattiva, no? Per dire, quindi questo è, che ne so, la media di un anno sul numero di telefono di una persona, ok? Quindi, come dire, da un dato grezzo però molto esteso, io posso anche rilevare delle informazioni che non sono presenti nel tabulato, ma se io riesco in qualche maniera ad aggregare, tiro fuori anche delle cose che prima magari non riuscivo a fare. Oppure, come in questo caso, la frequenza di comunicazioni, sia in numeri particolari, no? Dico, ok, fammi vedere queste persone quanto hanno parlato tra loro in che giornate. E ho un grafico di questo tipo e dico, ah, però lì chissà che cacchio è successo, che c'è un picco, no? Posso andare a vedere effettivamente che magari in quel giorno lì c'è stato un evento particolare. Queste sono tutte cose che effettivamente poi vengono utilizzate. Quindi li facciamo nella parte successiva. Questi sono appunto i metadati, che appunto è uno delle informazioni che sono state utilizzate parecchio. Poi, ovviamente, come potete immaginare, ci sono state molte intercettazioni telefoniche che più o meno funzionano nella stessa maniera. Si emette un decreto di intercettazione telefonica di urgenza, e hanno però queste differenze rispetto alla richiesta dei metadati, che non puoi farle a posteriori, cioè non puoi chiedergli fammi sentire le telefonate della settimana scorsa, no? Quindi quando la polizia giudiziaria chiama il Vodafone, dice ok, tu da oggi in poi mi devi intercettare le utenze telefoniche intestate a questo soggetto, no? È così che funziona. E ovviamente non è che lo puoi fare all'infinito, questi hanno un costo un pochino più rilevante, ma neanche più di tanto, e sono parecchio utilizzate. Si possono prorogare per legge di 15 giorni in 15 giorni, ma praticamente la prima proroga, e te la danno di default, anche senza chiedere, il minimo è 30 giorni, cioè è così proprio la prassi, è quasi uno standard. E in questa indagine ci sono delle proroghe di anni rispetto a delle utenze particolari. C'è un'altra tipologia di attacco remoto che richiede sempre il consenso del provider, che si chiama real-time positioning, che permette invece di avere accesso alla posizione in tempo reale rispetto a qual è la cella a cui un telefono è agganciato. Per come funziona il sistema GSM, che è più o meno quello che utilizziamo noi quando facciamo delle chiamate, anche se possiamo usare LTE, 4G, 5G, 4+, non importa, però funziona che la rete, proprio per funzionare, non per un motivo di controllo, deve sapere a che cella è attaccato un numero di telefono, per fare in modo che se qualcuno vuole chiamare proprio il mio numero sa a quale ripetitore andare a chiedere, no? Quindi questa informazione, che non deve essere salvata in tempo reale dai provider, ma la devono salvare solo quando c'è un'interazione, quindi quando c'è una telefonata, quando ricevo un SMS, ma no, se il mio telefono adesso non riceve niente, questa informazione non viene scritta da nessuna parte, tranne in questo caso, che appunto viene richiesta al provider un servizio di posizionamento in tempo reale. Quindi c'è una postazione in procura, volevo solo chiederti, ma le registrazioni audio non sono in tempo reale, cioè le registrano e poi le mandano, non è che ascoltano mentre parli. Le registrazioni audio, allora, ci sono tutte e due. Le intercettazioni audio esistono entrambi, in procura ci sono proprio le stazioni di ascolto in tempo reale. Però in realtà c'è anche una cosa che secondo me non si usa tanto, ovviamente non posso saperlo. Però nelle carte ci sono tante trascrizioni, cioè non c'è lo sbirro che lo fa, cioè è uno sbirro però che fa di lavoro la trascrizione delle chiamate, no? Quindi c'è. Poi tu puoi, è anche più comodo perché io sostanzialmente nell'indagine poi ricerco, non è che ascolto e basta, no? Devo cercare magari... Vediamo se qualcuno in una telefonata ha detto Savona, no? Perché è successa la roba a Savona, no? E quindi, perché lì sono veramente ore e ore e ore di ascolto, no? Quindi a meno che non ci sia proprio un evento, il corteo che è lì a ore, non penso che succeda. Anche qui, appunto... l'acquisizione però date 30 giorni e poi c'è più o meno il foglio uguale sempre nella macro categoria di attacchi remoti alle ambientali. Le ambientali cosa sono? Sono quelle, sono due tipi, audio o video. Anche qui il foglio è così, cioè c'è una richiesta del PM con questo foglio che fa alla polizia giudiziaria, che però non ha, cioè praticamente tutti questi servizi vengono delegati perché non ci sono né le competenze né nel caso di prima per forza i provider devono fornire quelle informazioni. In questo caso qui ci sono proprio delle ditte che fanno questo lavoro, no? Quindi ci sono proprio delle ditte di fiducia degli sbirri che appunto fanno questo di lavoro, no? Quindi ti vanno a inserire la microspia nella macchina, dentro casa, eccetera. Ci sono proprio dei prezziari che tra l'altro in questo momento storico stanno anche cercando di standardizzare, con tanto di straordinari, perché se tu devi fare l'uscita notturna, se devi fare, no? Cioè di solito funziona così, che vanno i due tecnici della ditta con a seguito gli sbirri a protezione nel caso in cui succedesse qualcosa, perché... E poi c'è anche di solito un fabbro se è dentro casa, perché magari deve scassinare la porta, no? E anche qui c'è la possibilità di prorogare. Tra l'altro con le ambientali è un po' strano perché succede spesso che la richiesta viene fatta magari molti anni prima, no? In questo caso è successo in una casa, di installazione di un ambientale prima dell'avvio dell'indagine, perché c'è questa ipotesi nell'aria. Poi mentre c'è l'indagine in atto si chiede alla ditta di attivare il microfono, l'ambientale, che è una roba un po' strana. Quindi di solito sono degli oggetti che hanno una SIM interna, che sono molto spesso alimentati, se sono in casa sono alimentati dalla corrente, quindi sono in posti tipo la cappa o comunque posti dove sono alimentati. Se sono invece in macchina sono magari anche non alimentati dalla vostra macchina, ma hanno una batteria, perché è un posto a cui tu puoi accedere facilmente nel tempo, no? Quindi posso riandare, cambiare la batteria, posso riandare, estrapolare i dati, ok? E sono molto difficili da trovare con degli attrezzi, non ci sono degli attrezzi che mi permettono di fare la bonifica, cioè una cosa che bisogna fare manualmente, perché la SIM invia dei dati in momenti, cioè non è in tempo reale, invia tipo la notte quando tutti gli audio del giorno che ha registrato sopra un certo volume, ma non è che registra sempre, anche perché c'è poco spazio nell'SD di questi oggetti. Quindi quando c'è qualcuno che parla all'interno di una stanza c'è un trigger, quindi il microfono inizia a registrare, salva nell'SD e la notte invia i dati. Più o meno funziona così, anche perché conviene economicamente, perché quello è traffico dati che loro devono pagare alla Vodafone, è che cioè, ci sono proprio dei contratti di servizio specifici per questo tipo di cose. Anche per l'ambientale, ovviamente. Ma quindi mentre sta trasmettendo e inviando la registrazione della giornata, in quel momento non si può trovare degli strumenti, perché si può identificare che sta inviando? Considera che è una SIM che sta mandando dei dati attraverso internet e tu in questo momento hai 30 SIM che stanno facendo la stessa cosa, qui in questa stanza. Quindi è molto difficile. Cioè, tu la trovi andando a cercare. Cioè, proprio così. Non c'è un modo più facile. E questa cosa è proprio considerata, cioè, a me, poi, magari sono tutte cose che mi fanno un po', mi muovono a me delle corde che invece a nessun altro, però questi servizi, no, hanno proprio, è un po' strano, perché è come se fosse veramente andare al supermercato per loro, cioè come comprare un qualcosa, no? E quindi quando non funziona, loro mandano i ticket, cioè loro aprono un ticket, cioè no, ma guarda che la microspia non sta funzionando, no? Questa è una microspia che avevano installato in corso Giulio, 5 anni prima di attivarla, perché appena hanno occupato questa casa, che appunto con l'operazione è stata sgomberata, e Non si sa se è la prima volta, però in questa occasione è stata riattivata. Okay? Quindi magari è stata anche attivata in un'occasione precedente, però in questa indagine è stata riattivata. Allora, evidentemente si tengono conto del fatto che lì avevano già quel servizio, non so se per risparmiare o perché, non so, però comunque è stata riattivata, e questo qui è il ticket degli sbirri che si lamentano con l'azienda esterna che non stava funzionando qualcosa e chiedono un ulteriore intervento per sistemare la periferica tracer sulla quale riscontrate problemi nello scarico delle tracce audio, è stata attivata c'è scritto detta periferica era stata installata il 29 novembre 2016, no? Cioè, che è una roba che dici cazzo, aspetta un attimo, no? Com'è possibile che tu, cioè, sei veramente preveggente? Ma invece no, è proprio, si vede che è una prassi, no? Tu occupi una casa e ci sta che come previsione io mi porto avanti, ti metto una bella... Non si sa mai se tra 4 anni poi magari finisci dentro un'indagine. Quindi abbiamo parlato di metadati, tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, tra l'altro è bellissimo perché nelle fatture ci sono anche il vaso dietro cui io nascondo la telecamera, ovviamente deve comparire nella fattura dell'azienda, no? Cioè tutto, però è una cosa che guardarla così sembra paradossale. Comunque, sempre all'interno degli attacchi remoti rientra questa cosa di cui secondo me poi c'è una paura forse anche esagerata, che sono i malware, che sono praticamente dei sono dei software che vengono installati nei nostri dispositivi senza il nostro consenso in qualche maniera e che permettono di attivare determinate funzionalità di sorveglianza fondamentalmente, quindi faccio uno screenshot, attivo il microfono, cerco nelle tue chat, eccetera eccetera. In questa indagine è stato utilizzato effettivamente un malware all'interno di un PC Windows, anche qui è un normalissimo servizio, ci sono delle aziende in Italia che offrono questa roba qui, ce ne sono, non sono molte, sono 2 o 3, soprattutto quelle che lavorano per le procure. Parliamo di Area SPA, che tra l'altro è anche qua molto vicino, noi tra l'altro abbiamo fatto grandi approfondimenti su di loro, se volete andarvi a leggere un po' qualcosa, insomma, trovate, e l'altra è RCS. Entrambe queste aziende hanno lavorato all'interno di questa indagine, qui invece si parla di soldi, abbastanza veri. Qua iniziano a spuntare un po' i soldini. Infatti, qua vabbè, è il, questo qui è il preventivo, no? Quando io voglio comprare la caldaia, chiedo a uno, chiedo all'altro, fammi un preventivo. Anche in questo caso uno fa il preventivo. Questa è l'offerta migliore in riferimento alla vostra gradita richiesta relativa a un'intercettazione telematica attiva di tipo di un terminale. Vi inviamo la nostra migliore offerta. La nostra migliore offerta, che sono condizioni solo a noi riservate, è opzione 1, solo ambientale audio, cioè ok, ti infetto il telefono, posso usare solo il microfono, e 100 euro al giorno, e, oppure tutte cose, che è 200 euro al giorno. Tutte cose vuol dire, come scritto sopra, il canone include opzione 1, solo audio programmabile, oppure tutto, keylogger, screenshot, snapshot, Skype, recupero file, positioning, eccetera, eccetera. Queste cose qua, cioè, vuol dire che chiunque le può comprare, cioè le fa un'azienda, io vado lì e gli dico voglio un malware per accettare il telefono del mio ragazzo. Il capitalismo è così, se tu hai soldi le compri. Non sarebbe legale, infatti loro possono vendere solamente questo infatti è a voi riservato, a noi veramente secondo me è un po' diverso. Quando si parla di accesso al microfono, sì, si parla di accesso al microfono 24 ore su 24, allora nel momento in cui viene utilizzato in maniera di sempre, cioè quando vuoi. In realtà l'interfaccia di questi, praticamente tu puoi decidere come programmarli, cioè puoi decidere che il microfono lo attivi solamente se sei all'interno di una struttura, no? Se sei con il caricabatteria attaccato, se sei, non so, puoi, cioè veramente puoi decidere, anche perché ci sono dei termini legali per cui tu ad esempio l'intercettazione la puoi fare dappertutto tranne nel domicilio legale, no? Cioè tranne all'interno dell'ambito della casa, di casa tua, perché quello è un po' troppo, no? Cioè è troppo invasivo, no? Per alcuni tipi di reati, okay, no? Poi in realtà nella pratica, okay, questa roba qui viene poco utilizzata perché... Ma come fai a garantire il servizio? Cioè, uno paga ma poi... Infatti c'è anche... Poi in realtà qua non c'è scritto, ma... Allora, appunto, l'installazione di questa roba qui non è banale, no? Come vi potete immaginare, cioè è proprio... molto marketing, soprattutto delle aziende, cioè veramente tantissime volte non può andare a buon fine, no? Perché tra l'altro dietro questa roba qui c'è un mercato grigio incredibile, perché A, non sono degli strumenti legali, perché io devo per forza trovare una vulnerabilità del device tuo, no? Che ancora non esiste, perché i produttori, i fornitori dei nostri device... in realtà sono interessati al contrario, perché devono appunto, la loro questione di marketing è più fare scena sul fatto che il dispositivo sia una roba sicura, dove tu tieni i tuoi soldi, hai la roba della banca, cioè la, no? Quindi è un po' controproducente per la facciata di Google, Apple, eccetera, no? Quindi il mercato dietro alla produzione di malware fondamentalmente è proprio una roba in cui costa un sacco, cioè comprare una vulnerabilità costa tipo 1 milione, cioè 1 milione è proprio base. Se tu vuoi una vulnerabilità per entrare sul tuo dispositivo one click o zero click, che ancora nessuno l'ha scoperto, è 1 milione. Se tu mi dai 1 milione, quella lì ce l'hai. Però quella roba vale poco nel tempo, perché quella vulnerabilità ha 2-3 mesi di tempo. Quindi tu ti devi accollare 1 milione di spesa per usare quella cosa lì 2-3 mesi. E ovviamente ci sono delle ditte, poche al mondo, che fanno questo come servizio e che lo rivendono, ma io te lo posso rivendere per pochissimo e tra l'altro non lo posso usare tanto, che più lo uso più quella vulnerabilità è esposta, no? Ma però è sicuro, cioè, poi funziona nel 100% dei casi, perché... No, perché infatti guarda, qua c'è scritto note operative: per effettuare questo tipo di intercettazioni bisogna fare fase 1, analisi dei dati relativi al terminale da intercettare, quindi devo capire che telefono ha, che sistema operativo ha, che operatore ha, che è aggiornamento di versione di Android A, no? Quindi devo... Poi da lì dico, ok, questa cosa in quest'altro listino mi costa tot. Che se io ho iOS oppure Android 7.2, magari c'è quella vulnerabilità che costa tot, no? Quindi il listino magari cambia. Cioè è facile con Windows 10, capito? Ma scusate, ma devono avere, cioè, si può fare da remoto o devono avere un accesso diretto sul telefono, tipo per cui... Non so perché, ma questo tema poi è sempre qua. Invece io vi fermo un attimo perché... cioè io mi rendo conto che questa è la cosa che fa più spavento, no? Io non mi vorrei fossilizzare su questa cosa qui, perché in realtà poi statisticamente è poco rilevante, cioè in Italia questa roba qui è veramente poco percentuale, appunto perché ha una bassa percentuale di successo, costa un botto, no? Poi vediamo nella parte successiva a come ci possiamo essere, come ci possiamo un po' garantire un pochino di più rispetto a questo tipo di attacco, ma io vi assicuro che non serve arrivare qua, è anche per questo che, cioè, questo è proprio una cosa che non serve attualmente, perché siamo più stupidi di così. L'altra cosa che si fa è, insomma, quando tutti noi abbiamo un problema, no? Cos'è che fai? Chiedo al motore di ricerca, e anche loro fanno così, cioè, vado a Google, solo che non è che gli chiedo, fammi vedere... quanto consuma la lavatrice, no? Ma gli chiedo, questa è la richiesta a Facebook, ma gli chiedo, mi devi dire di questa pagina, dice, li bruciano queste informazioni, cioè l'IP da cui sono stati fatti gli accessi, i log, cioè tutte le operazioni che sono state effettuate all'interno di questa pagina dagli amministratori, e delle informazioni di base sull'utente stesso, e Facebook vi risponde con questa cosa qua, no? Cioè ti dice, guarda che nel 2016, 20 febbraio alle 14.51, un amministratore si è loggato, è entrato da quell'IP. Con quell'IP io cosa faccio? Vado da Vodafone e dico, ma ascolta, tu mi dici di chi era quell'IP nel 2016? E Vodafone ce l'ha, e quindi ti tira fuori il responsabile dell'utenza telefonica legato a quel numero di telefono. Questo invece è la richiesta che hanno fatto a Google, si chiede papà di acquisire presso Google i dati di registrazione, i log di accesso alla casella di posta elettronica, cioè li bruciano @gmail, e Google ti risponde così: questi sono gli indirizzi IP, questa è la data dell'accesso, ora, e ti fanno anche la gentilezza di metterti anche il fuso orario italiano. E qua appunto prosegue la cosa dicendo, ok, Google ci ha dato questa cosa qui, noi abbiamo chiesto agli internet service provider di chi erano quegli IP che ci ha dato Google. Gli IP sono gli identificativi numerici dei nostri device quando sono su internet, e vengono fuori appunto tre utenze mobili, no? Quindi da qui sono riusciti a, da una pagina e da una casella mail, a trovare tre persone fisiche a cui accollare, no? Quindi giusto per farvi capire poi come sono effettivamente i passaggi, non mi hanno bucato, no? Cioè chiedo a Google. Ma non possono rileggere le mail? Dipende, le mail sono in chiaro. Cioè non l'hai menzionata questa cosa? Cioè... Non possono leggere mail così, per ora. Adesso vediamo invece come fanno, invece come hanno letto le mail. Per questo che ti dico, è più facile, cioè è proprio più facile. Ma Google è... Attacchi locali. È tenuto a dare queste informazioni? Allora, dipende molto dalle legislazioni, e poi sono ovviamente le cose che cambiano tanto nel tempo, quindi cioè forse non ha manco senso dire adesso non si può fare, domani si potrà fare, capito? Perché ieri invece non si poteva fare che Google gli dava l'IP, invece oggi si può fare, quindi domani magari si potrà fare, no? Cioè tu stai dando la tua fiducia a un'entità terza di cui alla fine gli interessa solo... fare soldi, non è che, no, quindi... Sì, però questo modo di procedere, in teoria uno basta che usa Tor, in IP, non Veniamo dopo alle difese. Però c'è, non so se poi ne parlerà più avanti, ma sulle ambientali, tipo, io quando il cellulare da qualche app mi dice permetti a Instagram, autorizzi che il microfono, faccia il microfono, registri, penso sempre, ah, ma poi mi registrerà sempre. Questa cosa, cioè, invece che chiedere all'azienda di eccetera eccetera, ma chiedere all'app, cioè che Google barra Instagram. Sì, sì, è sempre la stessa azienda. È sempre Google, sempre Google. Sì. Cioè, Meta, o Meta, Meta o Google. O Meta, cioè, nel senso, gli attori sono quelli. Hai autorizzato Google Triangolo a usare Meta. Il tuo cellulare, a usare il tuo microfono, perché hai utilizzato qualcosa. Sì, ma prima dell'app comunque il sistema operativo è di Google, cioè Android, esatto. È di Google, cioè... Ma io non, proprio non... è un livello, secondo me, che non è utile a... Cioè, perché questa cosa sono sempre 100 euro al giorno, una roba che posso... No, perché no? Perché quello è un altro meccanismo, perché appunto Google non è tanto cioè Google fa questo perché solo qua, perché in Italia per esserci Google Italia per forza devi andare a patti come attore del mercato, devi avere per forza questo tipo di accordi con lo Stato, no? Cioè è proprio inevitabile. Anzi, adesso c'è pure la legislazione europea che appena proprio settimana scorsa sì. È entrata in vigore, che si chiama chat control, no, non è Zanzan Digital Act, si chiama così, che comunque indica in questi soggetti, cioè quelli che hanno più di 14 milioni di utenti, quelli che hanno insomma un certo peso commerciale all'interno dello spazio dell'Unione Europea, a comportarsi in determinate maniere, per esempio a fornire delle informazioni quando vengono richieste dall'autorità giudiziaria, capito? Quindi, come dire, per me non sono soggetti affidabili, ma in quel sempre comunque in quel contesto lì, cioè non è che loro ne giova della loro, loro non neanche vorrebbero, però per aprirsi spazi di mercato, come fanno in Cina, no? Cioè, comunque a loro gli rode un po' il cazzo che non può esserci come motore di ricerca Google, no? Perché tu non puoi cercare Tiananmen, no? Però appunto, volevo evitare di divagare in queste cose molto specifiche, perché appunto non serve, cioè non serve. Attacchi locali, quindi finora noi abbiamo parlato tutti di operazioni, di attacchi in cui l'attaccante non doveva essere fisicamente presente, no? Cioè, e tra l'altro tutte di operazioni in cui la vittima poteva pure non rendersi conto di niente. In tutte queste cose la vittima non esiste, non è cosciente di quello che sta succedendo dietro alle sue spalle, perché non sa che è intercettata, non sa che hanno chiesto a Google i suoi accessi, non sa che ci sono i tabulati di tutti i suoi cazzi degli ultimi 5 anni, non sa. O delle ambientali, o insomma. Invece, negli attacchi locali, di solito la vittima sa perché... E qua quello che succede quando, appunto, come in questo caso, sono stati sequestrati dei telefoni, no? In particolare un telefono da cui poi è uscito tante informazioni, e quindi è il telefono del CPR. E per quando viene sequestrato un telefono si usa un programma che si chiama, è quello, nel mondo. Si chiama UFED, che è sviluppato da Cellbright, che è un'azienda israeliana, e fa solo quello, e costa, ho scoperto ieri, per caso, costa 15.000 euro al giorno l'affitto di questa cosa, una scatoletta, che tra l'altro è stata usata, cioè, spesso, è praticamente molto semplice, tra virgolette, si attacca il dispositivo sequestrato dentro questa scatoletta, e sempre attraverso delle eventuali vulnerabilità, se il dispositivo in qualche maniera è di un certo tipo, anche qui è tantissimo marketing, che se il telefono è un telefono sbloccato oppure non aggiornato, con una versione di Android dell'anno scorso, eccetera, ci sono dei modi abbastanza semplici per accedere ai dati, se esistono delle condizioni, che poi andremo a vedere nella seconda parte. Quello che esce fuori sono questi dati da questo UFED, cioè contatti telefonici di ogni app che voi vi potete immaginare, le chat, quindi anche i contenuti, le email se voi usate il telefono per gestire le email, gli SMS, la cronologia per le vostre ricerche e insomma tutto un po' quello che fate all'interno del vostro telefono. E no, quindi non è che serve chissà che cosa, basta che ti prendo il telefono e più o meno io quelle cose ce l'ho. L'unica cosa è che poi tu anche lo sai che io ce l'ho, no? E sono le cancellate. Eh? Le ricerche su Google anche sono le cancellate. Le ricerche su Google e la cronologia dipende anche lì da tante cose. Tu certo puoi fare cancella cronologia, sì, certo, ma ci sono dei modi molto più facili per non permettere questa cosa qui, che andremo a vedere nella seconda parte. L'altra cosa che è successa, ovviamente, oltre al sequestro di telefoni, è il sequestro dei dischi, cioè quei dispositivi che dentro cui noi ci infiliamo le informazioni dei nostri computer. In questo caso sono stati sequestrati 12 dischi, 12 device, e quindi ci sono questi 10 tera di dati, di le foto al mare con la mamma di Tizio e il volantino di Diamo Fuoco e CPR, no? E in più c'è anche tutta la vostra corrispondenza, perché io sono iscritto alla mailing list, mi leggo la roba, me l'archivio nel mio Thunderbird locale, quindi non mi serve manco andare a chiedere a Google a quel punto, eventualmente, no? Vengo a casa tua, ti piglio il computer, se tu ti puoi leggere la mail, ma posso leggere pure io teoricamente, no? Infatti così, in questa storia, sono stati tirati fuori gli archivi della lista che avevano loro per organizzarsi. Quindi questo è. Io ho finito la prima parte di... Questo è più o meno il panorama di quello che viene messo in campo adesso. Vado? No, una cosa. Non hai capitato di sentire anche di... Credo sia abbastanza estremo come concetto, però ad esempio nel caso del compressore era successo che quasi sicuramente loro avessero una sorta di device al cantiere, sì, che ascoltava tutto le telefonate. Sì. Questa cosa qui non è stata provata ovviamente e non potevano metterlo nei processi in questo modo. Si inventarono una copertura legale. Bravissimo. Però era palese che avesse ascoltato tutte le telefonate. Bravissimo. Non so, 1 o 2 chilometri, non so. Non è andato bene. Sì, allora questa roba in effetti non c'è nelle slide, perché non è successa dentro Scintilla. Tu parli di un IMSI catcher. Praticamente c'è questo device che effettivamente la normativa rispetto all'utilizzo di questo attrezzo è molto fumosa. E quindi quello che succede in questi casi, anche in realtà i malware, la normativa sui malware è abbastanza fumosa, perché ci sono veramente 1000 cavilli che non sono veramente esplosi, come dire, non sono dettagliati. E quindi vengono inseriti all'interno di questa categoria giuridica mostruosa che si chiama... intercettazioni speciali, una roba così, no? Che non ha, cioè, sono tipo che non è ben specificato. Tra l'altro poi in realtà il Ministero della Giustizia pubblica delle statistiche annuali rispetto a quante intercettazioni fa. Infatti è una cosa di cui non ho parlato, ma di che numeri parliamo? Poi arrivo alla cosa dell'IMSI catcher. Quello che noi possiamo sapere, perché tra l'altro non è solo il Ministero della Giustizia che può mettere in atto delle pratiche di intercettazione, ma ci sono anche altri enti che però per ovvie ragioni non pubblicano delle statistiche, tra cui il Ministero dell'Interno e posso immaginare anche servizi segreti, no? Che possono, mandare Area SPA a installare un, o magari hanno anche del know-how interno, mi posso immaginare, però di quella parte lì non possiamo sapere i numeri. Invece delle indagini del Ministero della Giustizia noi sappiamo i numeri e più o meno le intercettazioni annuali in Italia si aggirano nell'intorno dei 120.000 target annuali, quindi 120.000 persone più o meno all'anno negli ultimi 5 anni, questa è la cifra, all'anno vengono sottoposte a un qualche tipo di sorveglianza, che nella maggior parte dei casi è sorveglianza telefonica, ok? In una piccola percentuale che è, veramente stiamo parlando di 5.000, 6.000, 7.000, dipende dagli anni, sono malware, ok? Quindi non è una cosa che non esiste. Esiste, ma in determinati contesti, anche perché appunto è normativa veramente fumosa in alcuni aspetti, si può utilizzare solo per alcuni tipi di reati, quindi stampo mafioso, terrorismo, però può rientrare, no? In questo caso sicuramente sarebbe potuto rientrare. L'INC catcher penso che invece rientri proprio in un altro tipo di categoria, dove ci devono essere degli altri enti in mezzo proprio, cioè non è una cosa non normata, è proprio che non è una cosa che tu in qualche maniera puoi neanche rivendicarti, no? Quindi quello che fa un IMSI catcher è praticamente clona un ripetitore. Quindi invece di andare da TIM o da Telecom e dire alla Maddalena tutto il traffico che passa da questo ripetitore me lo devi passare a me, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ha nessuna pezza giuridica, io non lo posso fare. Cioè la Telecom mi dice sì, ma mi devi dare una carta di un giudice per farti prendere il traffico di tutto questo ripetitore, no? Una cosa che proprio non ha senso legalmente. Invece, cosa fanno? Cosa è successo? Che loro prendono come servizio di qualcun altro un ripetitore finto che è uguale virtualmente, cioè non fisicamente, cioè lui si spaccia per quell'altro ripetitore, e siccome più o meno la rete telefonica funziona che il tuo telefono si attacca al ripetitore con cui c'è un segnale migliore, io basta che lo metto più vicino al dispositivo che mi interessa controllare, e quindi teoricamente io posso sapere non necessariamente il traffico, perché lì diventa molto difficile farlo per tutti in maniera massiva, ma sicuramente posso sapere almeno quali sono i dispositivi che sono in quest'area, no? Quindi se succede una roba al cantiere, io ho l'IMC catcher, posso dire qui dentro ci sono questi dispositivi, questi IMSI, no? Che è appunto, questi IMEI anzi, che è l'identificativo di quella SIM. Quindi se io quella SIM poi me la ritrovo da un'altra parte, no? Per un'intercettazione, perché ti fermo, perché ti sequestro, posso dire ok, però tu quella volta eri al cantiere quando è successo il merdone, no? È anche molto difficile da tirare, cioè poi come fai però a tirare fuori questa roba in tribunale? Quindi in quel caso sono inventati, però in quel caso avevano, non è che avevano soltanto quel cellulare lì, avevano proprio le registrazioni telefoniche di tutti quanti, secondo me sì. Cioè questo è anche una roba abbastanza complicata e costosa, cioè parecchia costosa, deve essere proprio molto giustificata. Sì sì sì, no, ma si può fare, si può anche, cioè è tutte cose fattibili, no? Dipende appunto il livello, no? Cioè se sei Totorina o se, capito, se stai occupando di narcotraffico in Messico, va bene. Se appunto sei alla Maddalena in quel periodo lì, ok, ci può stare, no? Non mi sembra il contesto attuale. Puoi anche, no? Fare SIM hijacking, tipo che fai proprio la copia della SIM, quindi. Cioè ci sono molti modi, no? Però io volevo chiedere, per quanto riguarda il malware, se io cambio telefono, no, ma è capitato recentemente che un nostro telefono mi sei male per tanto tempo, se io cambio telefono ma mantengo la SIM, mi porto dietro il malware o devo cambiare il malware? Ciò va bene, posso chiedere. Con la SIM no, okay, devo, se magari c'hai una scheda SD, però appunto è molto raro che installi il malware. Con la SIM non è possibile. Anche se, prima che chiudiamo con i malware, di recente dicevano che in teoria una compagna di recente è stata cioè aveva dei problemi con l'ISP, cioè con la connessione a internet. Esatto. Bravissimo. Sì. Vai, vuoi dirlo te? No, vai. Beh, c'era una persona che aveva dei problemi con la connessione a internet, quindi giustamente si è lamentata con l'ISP, con la Vodafone, la Fastweb, con chi gli dà la connessione. Ha detto ok, facciamo i dovuti controlli, risolviamo. È stata contattata e praticamente le è stato chiesto di installare questa cosa su, non so se sul PC o sul telefono, per risolvere i suoi problemi di rete. E quindi poi presumibilmente questo, cioè, scoperto che poi è stato un malware installato, si presume, dagli sbirri attraverso, cioè con la collaborazione dell'ISP. Poi questa, volendo, era una cosa facile da scampare, cioè facile per chi magari c'ha un attimo di dimestichezza, per chi semplicemente ha bisogno di collegarsi al sito a cui si deve collegare, non ci pensa e si installa. Però è successo di recente questo, poi io non ho parlato personalmente con la persona, non so se è una leggenda, però siccome lo sanno altre persone immagino che sia successo veramente, l'ISPA ha collaborato a fare questa cosa. E quindi infatti anche quando si parla di malware ci sono un sacco di programmi legittimi, che ne so, TeamViewer è un programma che viene spesso usato da tutte le aziende, no? per guardare lo schermo della persona che stai aiutando e interagire col dispositivo, cioè quindi non c'è bisogno di utilizzare un vero e proprio malware. Se una persona riesce ad essere convinta a installare un software lui con le sue mani, effettivamente poi ti puoi installare sopra un qualcosa che per te è malevolo senza che sia effettivamente un malware. Quindi questa è l'unica cosa. Però non so se poi te sei altro di sta facendo. Infatti non abbiamo parlato perché appunto è un argomento che secondo me è sopravvalutato, però ci sono un tot di modi che vengono utilizzati per installare i malware e se c'è accesso fisico è molto facile. Se c'è accesso fisico in un telefono non protetto o in un computer non protetto è abbastanza semplice, tra virgolette, per qualcuno che fa di lavoro quello, cioè appunto la ditta esterna che chiamo, però appunto non è una cosa che posso fare live mentre ti sto facendo il sequestro, cioè devo avere comunque almeno qualcuno, me ne accorgo, no? Non è una cosa che succede magicamente, faccio così, è successo. Però con accesso fisico, soprattutto se il vostro dispositivo viene portato via, è una cosa assolutamente fattibile che esiste, cioè non è che non esiste. L'altra cosa è con la collaborazione dei provider, cioè un modo è ti buco il dispositivo, ma è veramente difficile, è costoso. L'altro modo è appunto devo cercare di, perché molti di queste vulnerabilità prevedono l'interazione dell'utente, cioè quelle che non prevedono l'interazione dell'utente appunto sono molto costose e molto rare, che vengono utilizzate proprio in casi eclatanti, perché sennò tutte le bruci. Quindi siccome prevedono l'interazione dell'utente, vuol dire che l'utente deve cliccare, cioè deve accettare l'installazione di qualcosa, e questo qualcosa poi farà il resto, che anche quello costa, perché il resto non è banale per un'applicazione uscire dal suo recinto e andare tipo ad accendere il microfono, se non ho anche solo l'applicazione che non è in background, no? Perché magari sto usando un'altra cosa, o perché magari c'è il tipo su Android il microfono lo può usare solo un'applicazione alla volta, quindi se io sto telefonando per un'altra applicazione è molto difficile accedere al microfono, ok? Poi in realtà ci sono degli altri modi, perché poi nel tempo ci sono dei wrapper, però insomma è una roba abbastanza complicata. La cosa più facile, appunto, che è una cosa che è veramente successa, è è successo in casi eclatanti, come si chiama, il magistrato del Palomara, no? Lui gli hanno installato così il malware, tutto il merdone che è successo in quella storia lì, cioè praticamente a lui gli hanno interrotto internet, non funzionava più la Vodafone, e quindi lui giustamente ha chiamato la Vodafone e ha detto oh, però che cazzo è? E ha detto guarda, c'è un problema con la rete, devi scaricare quest'app che ti controlla le impostazioni della SIM, e lui si è scaricato l'app, quindi è andato su Google Play Store, no? Dove c'era quest'app che si chiamava veramente SIM Vodafone sti cazzi, l'ha installata e l'app era un malware, no? Quindi c'è completamente interazione dell'utente, e questa roba non è che la fa solo lo Stato, cioè è una cosa che praticamente lo fanno quasi call center, no? Di mandarti la mail con scritto clicca qui, no? Perché un casino di truffe ci sono di questo tipo per accedere all'account PayPal, quindi cioè devi essere comunque in qualche maniera convincente. È una cosa che succede, quindi appunto questo rientra nel facciamo occhio a dove clicchiamo, no? Ci sono casi, cioè ci sono casi anche targetizzati, cioè perché se io voglio proprio puntare te, ti mando la mail, tu fai Fridays for Future, mi stai sul cazzo, ti mando la mail con scritto guarda che stanno abbattendo gli alberi in Corso Giulio, devi aprire l'allegato con le foto, guarda che bastardi, tu lo apri quell'allegato, capito? Piccole cose, anche state attenti alle mail, fanno le mail simili, tipo, e anche i siti che cliccate, vi possono sembrare i facciamo cisti, in realtà è fac y amo cisti e non è lo stesso sito. Però basta, se no domani non abbiamo più un cazzo da fare. Piccola intro a questa seconda parte, cioè è molto difficile parlare di appunto quali sono le pratiche che noi dobbiamo mettere in atto senza partire dal nostro modello di rischio, perché noi vabbè, in questa prima parte il nostro taglio era questo, no? Cioè che le entità da cui ci stiamo proteggendo sono di questo tipo, no? Che però non è sempre vero così nel nostro contesto, perché noi ci dobbiamo magari anche proteggere dal nostro datore di lavoro, da, che ne so, una persona con cui viviamo, con cui stiamo avendo degli scazzi e magari stiamo immaginando che ci controlla le chat del telefono, no? Possono succedere mille tipologie di questioni in questo contesto. Quindi noi in questa presentazione abbiamo dato il taglio molto chiaro di questo e quello di cui ci stiamo occupando adesso, quindi molto diverso, come dire, cercare delle protezioni da Google e Facebook rispetto alla profilazione commerciale della mia identità rispetto a voglio proteggermi dalla polizia giudiziaria, no? Cioè sono proprio di ragionamenti molto diversi. Rispetto all'operazione scintilla, ma poi evidentemente gli errori che sono stati fatti, cioè poi perché tutte quelle intercettazioni lì, quali sono state usate come prove? Cioè, anche qua l'interesse. Non ho capito. Di tutto quel lavoro che è stato fatto di intercettazione per l'operazione scintilla, quali sono state usate come prove? Qualcuno lo sa. Sarebbe stato interessante, qualcuno lo sa. Sono stati fatti degli errori. Degli errori da parte degli indagati, sì, noi parliamo di questo adesso, cioè non in quel caso specifico, però in generale da cosa potremmo fare noi per essere un pochino più Cioè, su questo una delle cose era, mi sembra, tutti quei tabulato che ci ha fatto vedere all'inizio erano tutti sms, chiamate, così, e sono state, erano una grande quantità di file, per esempio, delle cose. Cioè, quando è che possono... Dipende cosa c'è scritto. Sì, no, esatto. C'è scritto, magari... o magari che mi dice... L'hanno utilizzato un po' sbagliato, non so. O anche la questione degli accessi, se tu hai una pagina Facebook e quella pagina è creata da una determinata email, se io vedo che da quella email ci accedono tre persone, voi tre siete quelli che hanno creato quella pagina, appunto. Se per lui invece quello che hanno visto è compiuto un reato. O semplicemente perché è visto, non è per forza compiuto un reato, però... Sì, essendo che ci sono reati come istigazione a delinquere, è quello. Sì, certo, quello. Non capire se è quello. Poi vabbè, lì probabilmente poi c'è anche la parte di tutti gli avvocati, e c'è proprio un lavoro anche più giuridico di stare... Intanto però comunque l'operazione la fanno partire, hanno tutti dei dati, l'operazione la fanno partire, poi certo sta lì probabilmente gli avvocati a riuscire a smontare che cos'è una prova. Creano un contorno comunque, però avere un precedente, sapere cosa è quello come prova. Sì, cioè il punto appunto è questo, no? Che poi nella pratica, vabbè, in questo caso è molto specifico perché si parla di un associativo, quindi tu devi provare un certo quadro, no? Quindi ti dico, guarda quante chiamate si stanno facendo questi allegramente, per esempio. Poi devo anche provarlo, però quello già mi basta per, no? Però se non ci fossero già quelle chiamate sarebbe un'altra cosa, no? Quindi una delle questioni è: cerchiamo prima nelle autodifese digitali di avere un po' un modello di rischio, no? E qua l'abbiamo un po' cercato di delineare qual è il nostro modello di rischio, perché poi c'è questa cosa per cui in realtà ci sono delle cose che sono anche più, tra virgolette, fai più danni mettendo in pratica, magari mi viene in mente una cazzata, c'è un'app, no? Che dopo vediamo andando avanti, che se io sbaglio il PIN del telefono, il panic kit, cioè lui cancella tutto, no? Oppure può fare delle operazioni che io non posso, cioè per esempio io ho due bimbi, no? Che ci sta che prendono il telefono e provano a fare a sbagliare il PIN, no? Quindi è una roba che sarebbe deleteria nel mio modello di rischio, no? Una cosa che non posso fare. Quindi appunto, cioè cercare un po' di, cioè una cosa che non può essere generalizzata, no? Faccio vedere bene, secondo me, questa cosa, cioè che uno in base a quello che c'ha davanti deve usare gli strumenti giusti, no? Che però io non so che cosa ci avete davanti voi, se vi state immaginando, non so, appunto di andare a salvare gli alberi piuttosto che di andare a, boh, non lo so, no? Però questa è una roba che voi sapete. No, quindi in base a dovete, se avete appunto qualcuno che vi pigia il telefono tutto il tempo, piuttosto che, no, una roba che non è generalizzabile così, non è che io installo un'app e allora è risolto, non esiste questa cosa, come vi potete immaginare. Quindi appunto le domande più o meno sono queste, no? Da chi voglio proteggermi, cosa voglio proteggere e cos'è che mi aspetto rispetto a quello che io sto mettendo in campo, no? No, quindi rispondendo a queste domande più o meno cerco di capire quali sono gli strumenti che posso mettere in atto. Questo perché poi in realtà andare nella pratica di ogni operazione che noi possiamo fare per sostanzialmente rendere molto più difficile il lavoro alla nostra controparte. No, perché di questo si parla, non è che io sono sicuro al 100% non esiste, no? Però il succo è: a, nei grandi numeri noi questa roba delle intercettazioni, la sorveglianza, dobbiamo renderla proprio economicamente insostenibile, no? E un po' in alcuni aspetti la direzione è quella, infatti in alcuni aspetti c'è già un po' che stanno rosicando, no? Anche a livello europeo si stanno muovendo i servizi stessi per cercare ad esempio di capire come risolvere il grosso problema della end-to-end encryption, cioè quando noi usiamo WhatsApp e Signal, per loro è abbastanza una roba difficile da gestire, perché non è mai esistito nella storia un canale, no, su cui io non ho nessun tipo di controllo qualitativo sul tipo di testo che io sto mandando, no? Questo è abbastanza un problema. Quindi, ripercorrendo un po' le cose che abbiamo detto, quindi in queste macro categorie, che cosa possiamo fare? Molto velocemente, le abbiamo quasi già dette tutte. Allora, ovviamente, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche e i metadati, quindi i tabulati, molto facile negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda la messaggistica istantanea, quasi nessuno di noi utilizza, credo, gli SMS. Chi di noi ha ancora il Nokia, no? E si sente invece, perché c'è anche un po' questa cosa qui, no? Io ho il Nokia vecchio e non mi possono controllare, no? Invece appunto questo è sicuramente invece un pregiudizio, anzi, cioè col Nokia vecchio è molto più semplice avere un accesso diretto a tutte le tue comunicazioni. Certo, ne hai sicuramente meno perché non fai ricerche su Google, non hai, però tutte le chiamate, gli SMS che fai da quel dispositivo praticamente sono in chiaro, sono una cartolina che io do in mano a un postino di cui non so niente, ok? Per quanto riguarda le telefonate è, come dire, un costume ancora invece poco comune quello di utilizzare Signal e WhatsApp per fare chiamate vocali, quando invece sono anche più qualitativamente, audiofilamente, non so come si dice, migliori. Però effettivamente c'è una soglia, come diceva, di scomodità, no? perché magari io non so perché, però c'è un po' questa soglia, no? Non so, forse perché l'icona del telefono è sempre lì, piuttosto che, non so, deve essere, però c'è ancora qualche, uno scoglio a questo, non so come mai nella nostra modalità chiamare su WhatsApp è mentalmente, psicologicamente diverso da fare una telefonata normale, no? Questo non so perché. Metti sullo stesso piano sia Signal e WhatsApp, il numero sarei aspettato. Non sono uguali, cioè sicuramente non sono uguali, anche diciamo i proprietari sono molto diversi, perché comunque WhatsApp è di Meta. Diciamo che quello che c'è dietro l'ha fatto la stessa persona, perché WhatsApp ha chiesto a Signal come implementare la crittografia end-to-end, e non c'è evidenza sul fatto che, cioè, da nessuna parte compare nel mondo una... cioè, WhatsApp non ha quei dati. Cioè, WhatsApp non ha i contenuti delle conversazioni di default da negli ultimi, non so, 4 anni, non so da quando è stata inserita questa funzionalità, però no, non ce l'ha. Quindi da quel punto di vista, è pratica, per quanto riguarda il nostro taglio in questione, quindi non Google, ma se appunto il nostro taglio è la repressione statale, è praticamente allo stesso livello, non cambia, no? Ci sono dei ma, dei se, dettagli, però rispetto al livello SMS, l'SMS è qua, è tipo laggiù in fondo c'è WhatsApp e poi un po' più in su Signal, però ok, sì, sono un po' diversi, ci sono dei ma, dei se su alcuni dettagli, se io mando il link, ci sono delle impostazioni che, ad esempio, sì, la storia dei link ha avuto delle... però sono dettagli, capito? Se tu mandi un link, per esempio, su WhatsApp, a un certo punto, dal tuo è vero che quel contenuto non lo vede nessuno, però per fare la preview, no? Quando io mando un link, viene fuori tipo il summary, no? Il sommario dell'articolo più una thumbnail, la miniaturina, no? Quella roba lì all'inizio come funzionava? Che tu mi mandi un link, il mio computer visita, cioè il mio telefono visita quel link, quindi esplicitamente sta dicendo che il mio telefono ha visitato quel link, che è un po' vero, come se io andassi su sul browser a visitare quel link, no? Però questa cosa è un'informazione che è all'interno di un contesto che io mi immaginavo protetto, e invece sta uscendo verso un'entità terza, che è solo in realtà il sito che sto visitando, perché non ci sono teoricamente attori in mezzo che possono ascoltare, no? Però appunto sono dettagli. Questa cosa, per esempio, adesso non è più così, perché è una cosa che, insomma, però... Telegram usa i bot. Quando tu invii dei link, i bot vengono a checkano il link che tu invii. Me ne accorgo perché quando invio l'IP grabber prende i bot di Telegram. Comunque appunto, per limitare quel tipo di attacco lì e quei 3 milioni di record in quelle tabelle, no? Super facile, cioè non è che dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo un po' cercare magari di abbassare la soglia dell'usabilità delle telefonate su Signal e WhatsApp, non lo so. Però appunto questo mi sembra abbastanza la nostra portata. Rispetto ai tabulati, anche qua certo uso altre cose, considerando però che negli eventi che noi abbiamo visto prima nelle tabelle, uno degli eventi è quando ho una connessione dati, che è una cosa che di recente praticamente è così, cioè io ho una connessione dati, però l'evento è quando io mi collego, cioè la riga che dice il tuo numero di telefono si è collegato a questa cella per tipo di evento connessione dati, e la cella era questa a quest'ora, e quando voi, tipo, se spegnete il telefono lo riaccendete, oppure se metti modalità aereo e poi lo riattivi, no? Quindi quello è l'evento di mi sono collegato alla rete, e quello compare nei tabulati, no? Quindi anche 5 anni a ritroso, se io non faccio una telefonata, non ricevo un SMS, ma attivo una connessione dati che prima non lo era, quella cosa, quell'informazione viene salvata. Quindi un domani, se io in quel momento stavo scrivendo sul muro e No, perché poi tra l'altro non abbiamo parlato del fatto che c'è anche un raggio, non è che io posso sapere se che tu eri proprio lì, però è una delle prove che si aggiunge al fatto che no, ti ho trovato il volantino in casa, ti ho trovato la bomboletta in casa di quel colore e poi dalla tua cella c'era che è una posizione compatibile con la scritta, no? E tutto questo poi costruisce una cornice credibile per il giudice, no? Poi dipende, no? Dipende dove ti trovi, se sei in aperta campagna, se sei in città dove la densità delle celle è molto più elevata, la precisione è maggiore, però si parla di un arco di 600 metri di solito, no? Dalla cella io posso dire più o meno sei in questo cerchio di 600 metri. In area urbana questo? In area urbana, sì. Poi cioè, ci sono anche lì mille ma, perché tipo il GSM attiva... un altro sistema di ricerca e soccorso, se io per esempio chiamo il 118 o il 112, si attiva una roba che è un protocollo che gli operatori hanno messo in essere, per cui attivano la famosa triangolazione, no? Ma che non è una cosa che è sempre attiva, una roba che se io chiamo 112, sono nel bosco, se ci sono dei ripetitori lì a fianco sanno che cioè, il 112 funziona anche senza SIM, no? È la chiamata di emergenza, quindi è una infrastruttura sulla rete GSM che ti permette appunto di essere attivata in casi di emergenza. Quindi ci sono dei casi, no? Che però non è che sono, come dire, mi stanno controllando, cioè, questa roba non è che io posso decidere attivo la triangolazione, no? Attivare la connessione internet vuol dire sia tipo entrare in un'app di video o anche ricevere un messaggio, cioè tu ogni volta che ricevi un messaggio stai attivando, cioè tipo sempre. Tu sei sempre, cioè, quando tu hai l'iconcina LTE, H, quello che è GSM con le tre cose, tu sei sempre, se tu la disattivi la attivi, quello è un evento, no? Poi cambia tanto appunto anche se tu spegni il telefono, si scarica la batteria, stacchi la batteria, sono eventi un po' diversi per la rete, perché se tu spegni il telefono, metti modalità aereo, il tuo telefono dice alla rete guarda che mi sto spegnendo e quella roba viene segnata, ma lo dice per una questione tecnica, cioè perché poi tutte le persone se mi chiamano dopo quell'evento il messaggio che riceve l'altra parte sarà il telefono è spento, no? Che è diverso da il telefono non è raggiungibile, cioè sono proprio altri stati di quel dispositivo all'interno della rete. Quindi per esempio se noi dobbiamo andare a fare la scritta sul muro del cacchio, no? E magari mi arriva quell'SMS che sono lì e un anno dopo quell'SMS ci sarà all'interno delle eventuali carte, no? Quindi magari quella volta lì metto la modalità aereo, me lo lascio a casa, no? Quindi per avere un... Ma scusa, se non nel caso tu dici è più sicuro togliere la batteria, spegnerlo del tutto? No, non dico questo, dico sono eventi differenti, per esempio, altro caso specifico di cui parliamo dopo, che lo salto, ne parlo subito allora, che sono le intercettazioni ambientali. Se noi dobbiamo fare un'assemblea qui un po' sensibile, no? Perché vogliamo che sia una sorpresa. E... Quello che, come dire, bisognerebbe fare è prendere i telefoni e metterli in una scatola in cucina, chiusi magari con la radio accesa, per dire, no? Se tutti noi, per esempio, spegniamo il telefono, no? C'è questo evento per cui alle ore 18.01 queste 20 persone hanno spento il telefono, tutti quanti. 20 minuti dopo è successa sta cosa. Io non so dove erano questi, però questi tutti quanti insieme hanno spento il telefono, no? Cioè, una domanda me la faccio. Cioè, quelli sono, appunto, sono delle informazioni che non sono veramente le informazioni, però effettivamente mi dicono qualcosa. È uguale. Lo lascio direttamente a casa, forse è meglio. Oppure lo lascio di là, capito? Mm-hmm. Che mi frega. Scusa. E se lo mai la geolocalizzazione rientra più invece nell'altro, cioè più appunto nella questione commerciale della profilazione, che è appunto sì, GPS, anche col wifi e il posizionamento anche quando tu usi Google Maps, però non è dirimente ai fini appunto di questo taglio. Ma invece quando perdi la connessione, cioè se tipo lo metto nel freezer che viene schermato l'antenna, c'è un codice anche lì per la connessione persa, non è raggiungibile, ma lo vede come se è spento o è diverso? Cioè, no, è come... ma l'ISP lo vede, cioè c'è differenza se tu lo spegni e lo metti in un posto schermato che gli fa perdere la connessione o lo vede alla stessa maniera? Cioè, come, lui... è come se tu stacchi la batteria, come se lo metti, okay. O come se entri in galleria, sì, capito? Sì, okay. Cioè, ovviamente se il dispositivo non può mandare questa informazione, la rete non lo sa, sì. E quindi lo saprà alla prossima chiamata. Okay. Perché se qualcun altro prova a chiamare, l'ultimo ripetitore prova a cercare il tuo device, non lo trova, perché non c'è nessun feedback, sì. Quindi poi a quel punto avviserà la rete che guarda che sto device non c'è. Ok. Scusa, quindi anche la geolocalizzazione si viene... No, anche la geolocalizzazione è generale. Se tu, ad esempio, tu finisci in galleria, perde il segnale. Sì. Apri lo sportello, metti il telefono in galleria e te ne vai. E a quel punto sì. Lui segnala dove si trova. La galleria non cioè se non prende non segnala. Se non prende non segnala neanche la posizione. Se non prende non prende. Non c'è modo fisico. Mi metto una scatola dove metto dentro il telefono e me ne vado in giro, il telefono non comunica mai dove sono. Sì, però tu che te ne frega di metterlo dentro una scatola, una gabbia di Faraday? Cioè tu lo lasci lì sulla scrivania dove lo metti tutti i giorni e tu te ne vai. Se parto da qua e vado là, magari per un certo periodo non voglio far sapere dove sono. Sì. E quindi se mi riesco a inventarmi questa scatola... Però è come metterlo in modalità aereo. È come metterlo in modalità aereo. Cioè tu lo metti in modalità aereo, praticamente non c'è più modo per il telefono di comunicare, no? Come se fosse spento. Però poi ti va a dire. Aspetta un attimo, parliamo della sua modalità aereo. C'è un telefono, diciamo, anche quelli vecchi. Sì. Quindi io se trovo il modo di renderlo irreperibile, sì. Non irreperibile, che non mi arriva la comunicazione, sì. Anche la posizione perde. Allora, se stai parlando di GPS, il GPS è un sistema passivo, cioè... No, GPS, cellulare. Sì. Vecchia generazione. Senza connessione. Senza connessione. Quindi alle celle. Quindi alle celle. Sì, no, se il telefono è che non è raggiungibile, non c'è modo. Non è raggiungibile, quindi anche la posizione non viene rilevata. No. Ma di solito neanche così, cioè neanche normalmente. Viene rilevata solo in caso di eventi. Se lo spegni la posizione la dà lo stesso. Sì, viene segnalato il fatto che io mi sto spegnendo e all'ultima cella, però appunto è l'ultima cella che no, c'è questo evento. Una volta lo spengo a Milano, vado a Firenze, non mi segna che sono a Firenze. Quando lo riaccendi? Può essere come un caso di sequestro. Se tu l'hai spento, il telefono non può parlare con nessuno, no? Gli smartphone con la batteria, della batteria non gliela stacchi allo smartphone e continua a segnalare la posizione con il tempo. Allora questo anche è un tema che è molto scricchiolante, no? Non è così, cioè per evidenti ragioni. Ci sono stati dei casi di malware che si sostituivano alla schermata di spegnimento, ma è una cosa che è successa tipo due volte nei primi anni 2000. Quindi quando io schiacciavo il tasto power mi veniva fuori un'altra app che non era quella del telefono con scritto spegni, accendi. Quando io schiacciavo spegni lui faceva diventare lo schermo nero facendomi credere che il telefono fosse spento. Una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra adesso, cioè non esiste. Personalmente con lo smartphone spento, se tu lo spegni il telefono è spento. Ci sono anche qua mille dettagli, ma tantissimi. Per esempio, una cazzata stupidissima, WhatsApp c'ha una modalità di backup, no? Che fa il backup, che si attiva tipo alle 2:30, adesso non mi ricordo. Ci sono delle impostazioni per cui se io sono in modalità aereo, c'è un permesso di WhatsApp che ti viene chiesto durante l'installazione, che dice, ma io posso accedere alle impostazioni di rete? Sì, perché? Perché lui alle 2:30, siccome deve fare il backup, se tu ce l'hai in modalità aereo, lui toglie la modalità aereo, si attacca alla rete, fa il backup, no? E rimette la modalità aereo. Questa è una cosa che succedeva di default forse fino a poco tempo fa, no? Quindi sono cose che cambiano. Cioè quando io ovviamente mi installo una roba sul telefono a cui do tutti i permessi, cioè, no? Possono succedere queste cose, non dico che non può succedere. Però comunque se il telefono è spento... Però se il telefono è spento, è spento. È un oggetto, è una forchetta. È proprio una forchetta, cioè se io lo spengo a Milano e vado a Firenze, nessuno sa per il telefono, eh? Se poi nel frattempo io faccio no. Te ne accorgeresti se resta acceso perché scende la batteria. Se uno lo tiene spento per due ore, in realtà il telefono acceso, la batteria poi non lo riaccende, la si parlava che potevano attivare il microfono anche con il telefono spento. Quindi quello scarica, se fosse vero, quando scarica la batteria, però non se ne accorge subito se è successo di più. Perché da oggi te la prossima non scarica il mandato di cattura. No, però non succede. Non è successo fino ad oggi, poi... cioè, ma no, il punto è che non funziona così proprio perché, come dire, è, cioè io non capisco proprio perché uno deve immaginarsi questo livello di complessità, perché in realtà la complessità è molto minore. Cioè io spendo 10 euro al giorno per metterti un microfono qui, perché mi devo immaginare di corrompere l'azienda più potente del mondo che è tipo Google, no? Alphabet, per trovare un modo per fare finta, cioè per mandare i dati quando, quando il tuo device, cioè è una cosa talmente complessa che, come dire, in confronto ai 10 euro che io devo spendere per metterti un microfono in casa, non ha nessun senso immaginarlo, cioè no, non funziona proprio questo ragionamento, no? Anche in macchina, ma anche in macchina, cioè quello lì è già sufficiente. Nel senso, la mia domanda era se potevano localizzarsi anche con il telefono spento o disattivato, cioè nel senso che non prende irraggiungibile. No, cioè se è raggiungibile anche la localizzazione deve ma una cosa che secondo me può essere un po' rischiosa è che se il GPS è acceso e non c'è connessione di rete, un'app può registrare tutto. Bravo, ma di cosa stavo parlando? Sanno che tu quel giorno hai fatto il... Cioè la cosa del GPS è che il GPS non è attivo, cioè il telefono ovviamente non parla con i satelliti per proprio evidenti questioni energetiche, ma riceve dei segnali sincronizzati dai satelliti e riesce a ricostruire la sua posizione in base a questo, ma non deve mandare dei segnali, no? Quindi alcuni telefoni in modalità aerea possono sapere dove si trovano. Vuol dire che se io ho un'app di navigazione che è offline, come ne esistono, perché non esiste solo Google Maps, può farmi andare in giro per strada anche in modalità aerea, ok? Però il mio telefono, tipo se uso Strava o queste app per fare ciclismo o corsa, che si tengono le mappe, anche da offline quell'app si salva il mio record di questo percorso e alla fine della giornata, se io magari riattivo la cosa, la manda a Strava o a no? Il fatto che io ho fatto questo percorso in bici, ci ho messo tot, sono settimo in classifica, no? Quindi non è detto che il fatto che io abbia messo in modalità aereo non vuol dire che magari c'è qualche app che si sta segnando dove mi trovo in quel momento e poi in un secondo momento mandi quell'informazione. Però se il telefono è spento, il telefono è spento. Ma invece il fatto che il telefono spento non manda nessuna informazione, se non il fatto che è spento. Sì. Quindi comunque se non il fatto solo spento, quando lo spengo. Certo. Esatto. O è spento per tutto il tempo. Esatto. L'informazione che hanno. È bravissima, esatto, è così. Infatti è stato anche utilizzato questo per Scintilla, una delle cose per cui questa roba è stata utilizzata era proprio più o meno quando è che la sera viene spento questo telefono, cioè avvengono le ultime comunicazioni, per vedere se magari una persona lunedì, martedì, mercoledì va sempre alle 10 e poi quella sera però tu alle 2 hai fatto qualcosa, no? Quindi c'è, quindi sì, effettivamente ha molto senso quello che dici. Rispetto alla cosa dei malware, è che la domanda classica è come faccio a vedere se il mio telefono è infetto, eh? Molto difficile. La cosa da suggerire è sicuramente la prevenzione. Quindi, se qualcuno ti chiama e ti dice guarda che sono Vodafone, oppure se mi smette di funzionare la connessione, io chiamo, c'è l'operatore che mi dice devi installare questa app, ricevo questa mail con devi aprire questo allegato, o un SMS che mi puzza di... No, poi ci sono anche proprio le campagne semplicemente di truffe, no? Quella delle poste dell'anno scorso è stata abbastanza famosa, con il link a posteitaliane.it, no? Dove io apro e metto le mie credenziali e la mia carta. Però appunto non è solo un tipo di consapevolezza di base, il fatto che comunque viviamo in un mondo brutto, no? L'altro suggerimento è di aggiornare un po' i device, cioè di tenere più o meno aggiornati i sistemi operativi dei nostri dispositivi. Questo per il motivo che spiegavo prima, cioè che le vulnerabilità hanno una durata di vita abbastanza breve, no? Perché c'è tanta ricerca su questa roba della sicurezza dei device, perché noi siamo gli ultimi attori in questa catena di merda, eh? Cioè ci sono gli attori che hanno i soldi, che vogliono proteggere all'interno delle reti, cioè non è che qualcuno considera le nostre, come dire, chiacchiere su WhatsApp, cioè ci sono veramente degli interessi importanti sulla sicurezza delle comunicazioni all'interno dei dispositivi. Quindi aggiornare device ci permette di essere sempre sul pezzo rispetto alle ultime vulnerabilità che sono state sistemate, ok? Quindi aggiornare i device e anche le app in generale. Ci sono delle app che ci danno una qualche idea di se il nostro device può essere stato infettato, però veramente un tipo di sicurezza che, siccome non è 100%, no? Quindi magari mi dà il via libera, allora io mi sento tranquillo, una cosa che secondo me non ha quel tipo di senso. Scusami, ma quindi se hai un malware nel telefono e aggiorni, fai l'aggiornamento, no. Quello no, non lo pregi così. La domanda era se se ho il telefono compromesso e poi aggiorno, sparisce la compromissione. In realtà non è così, perché la compromissione in realtà è solo il primo step, poi c'è la persistenza, no? Un altro step per cui io devo trovare un modo per persistere all'interno dell'app, che non è per niente banale anche questo, perché la maggior parte dei malware è molto difficile mantenersi all'interno di un dispositivo anche solo a accendo-spengo, cioè proprio non è banale, non è banale fare questa cosa qua. Approfitto un secondo della domanda che ti hanno fatto, o prima di quello che hai appena detto sull'aggiornamento, perché io, almeno nel tempo che è passato finora da quando ho iniziato a guardare queste robe, mi sono reso conto che confondevo, diciamo, dei concetti fondamentali. Cioè il fatto che tu hai detto adesso sì, aggiorno un'app, o aggiorno un dispositivo, o aggiorno un sistema operativo, aggiorno qualche cosa, gli aggiornamenti te li dà il fornitore di quel servizio, te li dà Android. Secondo me questo concetto è difficile da far passare, perché ci manca la caratterizzazione della differenza tra i poteri che odiamo. Google è un potere che odi, lo Stato è un potere che odi, però noi dimentichiamo che non sono la stessa cosa. Cioè, sono poteri conflittuali la maggior parte del tempo, esatto, tra l'altro. Esatto, cioè, questa roba secondo me è un declic che dobbiamo fare in testa, perché io ci ho messo un sacco a dire, cazzo, però Google mi dà l'aggiornamento, lo Stato mi vuole controllare, fanculo tutto, no? Però no, no. Sì, capito? No, allora ogni tanto non ha senso, perché comunque mi controlleranno lo stesso. No, cioè, nel senso, io che sono Google, devo vendere l'Android. Se non, cioè, il capitalismo la fa fede su tutti. Cioè, nel senso, i soldi, questo lo sappiamo. Cioè, nel senso, tutti devono fare i soldi. Ok, Google Fermina ha compromessi con lo Stato, ha un compromesso che fa. Quindi io te lo do comunque il software pulito, o meglio, le vulnerabilità che ci sono le metto a posto. E questa è una delle robe che io sinceramente penso che sia una deformazione professionale nostra. Nel senso, e quindi tu dovresti aggiornare comunque il telefono, anche se l'aggiornamento te lo dà il male, che è Google, perché lo Stato, che è l'altro male, ti vuole controllare. E questa è una roba che in realtà dice, vabbè, tanto sto usando il computer comunque male. Non è proprio così. Il computer e smartphone comunque è diverso. Col computer hai più possibilità anche, di controllare se è infetto rispetto al telefono. Dipende poi se hai Windows. Poi negli Stati Uniti dipende anche dove ti trovi, perché cioè, questa roba è più chiara perché c'è un maggiore conflittualità tra privati e potere statale, cioè rispetto all'Italia. Quindi, però queste sono cose che non c'entrano con l'informatica. Cioè, sono cose che c'entrano con quel fatto che dovresti analizzare la società che hai davanti, in cui vivi. Sì, è stata fatta prima l'accezione che oggi stiamo parlando dello Stato che ci controlla, non stiamo parlando di come dare meno metadati e big data, come, perché non utilizzare Gmail, provare a usare altri provider di mail, eccetera. Perché non usare Google, usare DuckDuckGo, quello lo facciamo in un altro incontro, se volete. Ma comunque, sì, infatti appunto il taglio era questo, e cerco di velocizzare sulle ultime cose. Appunto, vabbè, rispetto a quest'altro attacco che chiedo a un grande provider che è costretto per la legislazione attuale a fornirmi delle informazioni, il consiglio è ovviamente quello di cercare almeno di evitare i fornitori che sono costretti per legge a fornire dei dati a chi indaga. Almeno quando possiamo e quando appunto facciamo delle cose che richiedono un certo tipo di attenzione. Invece, parlando di attacchi locali, che sono poi quelli che effettivamente, cioè è vero, sì, metadati, intercettazione, però quando io ho effettivamente tutti i dati, i volantini, le comunicazioni, cioè proprio le mail, quelli sono in realtà un po' la ciccia, secondo me, anche per ricostruire, no, i tipi, cioè come funzionano i tipi di relazione all'interno dei gruppi. E questo anche è abbastanza facile da risolvere, questa problematica del sequestro, fondamentalmente, che può essere anche un fermo, no? Ci sono casi in cui, per esempio, ci sono dei casi in cui con dei semplici fermi prendono il dispositivo. Io sono abbastanza certo che tu hai parlato molto di recente con il tuo gruppetto di quello che è successo, apro subito le chat, ta ta ta, vedo e più o meno riesco a crearmi un quadro di quello che è successo sul momento, quindi senza fare un sequestro, che cosa, no? Faccio un fermo, eccetera. Molto semplice in realtà questa cosa di cercare di ripararci da questo tipo di attacco, basta cifrare. Sì. No, che c'entra un po' anche con il discorso. Per esempio, una delle cose che adesso è molto diffusa è il fare le foto a qualsiasi cosa. In un mondo in cui i social vengono usati un sacco anche negli ambienti militanti o di lotta, così, per esempio con un sequestro. Cioè puoi avere anche tutte delle immagini, per esempio, e anche all'interno delle immagini si nascondono tutti dei dati, no? Per tutto il discorso dei metadati che dicevi prima. Quindi appunto l'ora in cui è stata scattata la foto, poi ricordo, avevamo a un certo punto guardato tutti il modello, il tipo di telecamera, eccetera. Cosa da dire utile oggi è che tipo quando fate una foto da Signal elimina già i metadati sulla foto e la foto non viene salvata sul dispositivo ma è nella chat. Siccome la chat è soltanto in locale, non sui server, e se il dispositivo è ben protetto, comunque. Cioè, se avete, che ne so, il codice di blocco sull'applicazione, o usate l'area personale per parlare di ambiente Samsung, comunque la foto non è presente nella galleria del vostro telefono. Comunque, vabbè, molto semplice, bisogna cifrare i nostri device. Bene, questa è una cosa che dobbiamo fare e ultimamente è anche una pratica che è il default quando noi compriamo il dispositivo. Per ogni dispositivo, sistema operativo ci sono modalità diverse, quindi è una cosa che dovete fare voi, andare a cercare Samsung S3, cifrare il device, settings, privacy, oppure impostazioni, sicurezza, no, ci sono mille. A un certo punto c'è cifra questo dispositivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che i dati all'interno del nostro dispositivo non sono in chiaro, no? Sono in qualche modo offuscati e la protezione di questo offuscamento è data dalla password o da un PIN, da una sequenza, dalla fingerprint. Ci sono mille modi, ok? Anche qui ci sarebbero infiniti discorsi da fare, però una cosa è il PIN, cioè il fatto che io posso entrare, il login, una cosa è come sono i dati dentro, ok? Login è una prima barriera. Quando vi fanno un sequestro, il PIN non serve a niente, cioè non è utile, no? Perché quando si fa una copia forense, appunto, del materiale, se i dati sono in chiaro, i dati sono in chiaro, cioè io posso cercare, fammi vedere tutte le immagini che ci sono su questo disco, tutti i video che ci sono su questo disco, vengono categorizzate così, no? Tutte le mail che ci sono in questo disco, io fammele vedere ordinate per data, ordinate per oggetto, per destinatario, ok? Le mail sono quelle che hai su app, però... Quelle che hai, sì, se ci sono delle mail su computer salvate con Thunderbird, con quello che vuoi, o sull'app del telefono, sì, se usi K9, se usi Gmail, che comunque cache sul telefono, salva un po' di mail. Quindi, se ho capito bene, hai detto che la password... Allora, visto la password è basta, è solo il primo accesso. Quando voi cifrate il device, che per quanto riguarda il telefono, la password è la stessa. Cioè il PIN è quello che in realtà è il PIN della cifratura o la password della cifratura. Però non è attivo il blocco schermo, che è un'altra cosa. Il blocco schermo serve se io ti prendo il telefono, non posso subito accedere all'interfaccia. Ma se io prendo il tuo telefono e me lo porto via, quei dati che ci sono dentro li posso trovare, ok? Nella pratica si fa con UFED, Cellbright, 15.000 euro al giorno, dipende da molte cose, se io ho un SD esterna, il modello del telefono, mille cose. Però se io ho solo il PIN, posso tirare fuori i dati. Se i dati sono cifrati, se io non ho il PIN, non si può fare niente, cioè proprio non si può fare, ok? Ci sono dei casi in cui qualcuno dice, ah però in questo periodo è uscito un articolo di un francese che adesso è incarcerato, che lui sostiene che aveva il computer cifrato, eppure sono riusciti a trovare delle cose all'interno. Anche qui ci sono mille dettagli, mille cose, bisogna cercare, perché veramente ci sono tanti casi d'uso e tanti modi. Una, ad esempio, se io uso il mio computer in chiaro, no? Oggi noi, non so, te c'hai il computer in chiaro, hai usato tutte le tue mail, c'hai i tuoi volantini, e dopo questa giornata decidi, basta, adesso mi cifro il computer, no? Quello che fai è reinstalli, no? Tipo reinstalli quello che vuoi, Windows, Linux, eh? Quando tu installi ti dice cosa vuoi fare, vuoi cifrare tutto il disco, dimmi la password di cifratura, tu scegli la tua password, eccetera. C'è subito una modalità che ti chiede, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi formattare tutto il disco, però ci metto mezz'ora, però è sicuro? Oppure lasciamo i dati come sono, che c'erano, e tutti quelli che tu puoi scrivi li cifro. La maggior parte della gente quando vede questa roba dice, vabbè, non mica aspetto mezz'ora, no? Faccio sta cosa qua. Quindi quello che succede è che se io non è la prima volta che sto usando quel computer, quando poi avviene un sequestro, io ho il disco cifrato, ma quando c'è un'analisi forense del disco, posso tirare benissimo fuori i dati di prima del disco cifrato. Quindi se io prima c'avevo la roba in chiaro, quella roba c'è lì, è lì, no? Cosa che, cioè, mi è pure successa di vedere. Quindi... cioè, appunto, veramente ci sono mille casi. È una roba su cui devi fare un attimo occhio. Veramente, ma in quel momento ti prendi quella mezz'ora di ci sto un attimo dentro per la mia sanità dell'anno, degli anni prossimi, no? Quindi cifro il mio device, guardo come fare, ci sono mille istruzioni dappertutto, vi cercate il modello, oppure domani nel laboratorio, se volete fare sta roba, mi cifro il device. È una cosa veramente banale che non ha nessun tipo di impatto, se non quello di rendere molto più difficile in un'occasione del genere l'accesso alle informazioni che sono contenute all'interno dei dispositivi. Ci vuole poco, ci dà tanto. No, volevo dire, se uso un hard disk esterno di quelli automobili, diciamo, e salvo tutto di sopra, cioè tutto, il computer da solo quei documenti non ce li ha. Quindi loro si devono portare via l'hard disk esterno e tenerselo per un po', cioè non basta che mi entrano in casa, attaccano l'hard disk esterno al device. Allora, No, lo cifri. Allora, dischi esterni si possono cifrare, ovviamente. Non deve essere un disco che tu usi condiviso per avere tipo la condivisa dei film con il tuo compagno, la tua compagna, il tuo inquilino o il tuo, cioè, no. Nel senso che se no poi perde di senso. Quando fanno i sequestri in casa, in realtà succede anche, in realtà sarebbe così la prassi, cioè la legge dice che tu dovresti teoricamente potresti fare la copia forense durante il sequestro, quindi ti devi portare l'attrezzatura per copiarti il disco mentre io ti sto facendo il sequestro. È una cosa che si dovrebbe fare così. Poi in realtà tante volte non c'è, cioè considerate che gli sbirri quando arrivano a casa non c'hanno manco i fogli per stamparti il verbale, quindi succede che si portino via il materiale dentro delle scatole della piscina che hai comprato il giorno prima, per dire a livello, no? Però dipende appunto da quali sono i procedimenti, cioè magari arrivano i plotoni con gli avvocati e i controcazzi e capito, e vogliono fare tutto preciso e perfetto, invece magari sono due raccattati che non sanno manco che cosa devono fare, no? Perché gli hanno detto devi andare a prendere dei computer, cioè, capito? E quindi si muove la riga, si muove così, possono sì, sì. Sei smart. Sì, però ad esempio durante i sequestri. Anche da che cosa si sta muovendo, anche la Ligus, quanto i tibetani hanno voglia di cercare comunque se c'è qualcosa. Comunque il dipartimento forense in Italia è fra i più forti, hanno anche fatto una distro, si chiama Kane. Sì, sì, sono molto forti. Infatti, piccolo accenno: se cifrate solo una parte del disco, tipo una partizione, anche il tipo di file system che scegliete, cioè, può essere, senza entrare nei tecnicismi, ci sono robe che vengono salvate sul vostro PC a seconda di che tipo di partizione create, e quindi se non usate sistemi operativi che partono da chiavetta, tipo ad esempio Tails, rimangono delle cose dovute a quando il computer fa l'indicizzazione, il journaling, nella cartella temporanea. E quindi anche se cifrato, un bravo forense può ottenere delle informazioni anche nella partizione che è cifrata, ma questo è una di la verità. Cioè, anche togliamo un po' lo stigma che Linux è sicuro, cioè nel senso dipende come lo configuri. Se Windows non ha il disco cifrato, ci entri dentro anche se non conosci la password. Linux, se il disco non è cifrato e se non hai messo una password che ti fa modificare la prima voce di boot, tu modifichi la prima voce di boot, entri in una modalità che si chiama single user mode e non hai bisogno della password. Quindi c'è un disco cifrato per decryptare. Sì, cioè, quello sì. Cioè. Sì, ma poi anche perché diciamo che i file system di Linux sono un po' più carini, poi dipende sempre quello che scegli, però tipo XT4 non ha l'indicizzazione. Sì, anche diciamo, perché ad esempio tu quando fai, si dice, fai la full disk encryption, perché ok, i dati ce li ho protetti, però ad esempio se mi restituiscono il dispositivo, anche se cifrato, cosa che non possono aver modificato, oltre a non poter leggere io non posso manco scrivere, no? Però in realtà la prima parte iniziale, che è la parte di boot, che è quella che ti permette di avviare, tu devi più o meno lasciarla quasi sempre in chiaro, quella è modificabile. Però anche lì, cioè, il livello, la lancetta è abbastanza alta, cioè vuol dire che devi già aver fatto qualcosa che deve giustificare dei soldi veri, no? Quindi in quel caso, se ti restituiscono il computer, tu non è che lo accendi serenamente, no? Quindi anche lì sono mille se, devi starci dentro un attimo e dire ok, mi hanno restituito un computer, ce l'avevo cifrato, va bene, cosa faccio, no? Boh, cioè, io... forse è una domanda super ingenua, ma se tipo disinstalli le app, tipo Telegram, prima di fare questo, fa qualcosa che... Allora, ci sono, prima accennavano, poi alla fine non ne ho più parlato, cioè, ci sono vari attrezzini... che ti permettono di fare questa cosa. Uno di questi si chiama Panic Kit, cioè è un Panic Kit, cioè è fatto dai giornalisti del Guardian. Praticamente ci sono tutta una serie di funzionalità e piccole applicazioni che ti permettono di eseguire delle operazioni in determinati contesti. Quindi una delle modalità è, c'è un'app fake che si chiama come vuoi te, cioè tu ti crei un'icona tipo di WhatsApp con un'app che si chiama WhatsApp, però è nella prima schermata e tu sai che se premi quella succedono delle cose, quello è il panic kit, un panic button, no? E decidi tu, puoi configurare quello che deve succedere, che può essere mando un sms a delle persone di fiducia, cancello tutto, cioè reimposto il telefono in impostazioni di fabbrica, piuttosto che, no, e puoi decidere ad esempio anche se metto questa password, perché cosa succede? Quando io, se mi sequestrano una roba, non è detto che, siccome sono sicuramente in una posizione di forza molto squilibrata nei miei confronti, non è detto che io non riesca a fornire magari una password di cifratura, no? Quindi un conto è dire, ok, c'ho il telefono cifrato, però minchia, se tu mi porti in commissariato, io sono da solo, e tu comunque c'è un livello di... disagio abbastanza alto, io comunque ci sta che a un certo punto dica boh, questo è il mio PIN, no? Non è che è una roba che io posso escludere. Quindi tipo una delle modalità del panic kit è, se io metto questo PIN che è sbagliato, si attivano tutta una serie di cose, che tipo può essere cancello queste app, piuttosto che nascondo queste icone, piuttosto che cancello tutto il telefono, oppure mando questi sms, no? È una cosa che ovviamente però devi starci super dentro, perché se tu sbagli il PIN, cioè hai detto cancello il telefono, devi avere già il piano B o un backup sicuramente di quei dati, no? Che è l'altra cosa del, cioè quando, che, ricordate quando noi non abbiamo parlato di questa cosa, ma quando vi prendono della roba o che perdete il telefono, ce lo rubano, ce lo sequestrano, poi cioè non solo che la nostra roba ce l'ha qualcun altro, ma è che noi non ce l'abbiamo manco più, quindi avere una copia sarebbe sempre consigliabile. Ecco, nel disco esterno mettici anche le copie del tuo computer in cassaforte. Però è un po' scomodo per salvare tutte le volte. Devi fidare. Ti devi fidare. Se invece avete un po' prima di installare l'app, apri la panchina senza farlo o... Allora, cancellare la roba in generale non funziona tanto, perché praticamente per una questione di ottimizzazione anche cancellare i file non vengono cancellati veramente, cioè è come se ci fosse un indice iniziale del libro in cui c'è scritto i capitoli che sarebbero i nomi dei file, e poi c'è scritto questo file è a pagina 22 e dura 3 pagine. Se io, quando devo cancellare un file, viene semplicemente rimossa quella riga dall'indice, quindi per il disco le pagine dalla 22 alla 25 sono libere, però in realtà non è che vado veramente a cancellarle dal disco, perché sarebbe troppo dispendioso. Quindi ci sono dei programmi che si vanno a leggere veramente tutto il libro lasciando perdere quello che c'è scritto nell'indice e dicono, ah, però qua c'è scritto questo. Quindi tu quando cancelli la roba, in realtà non è che veramente la stai cancellando così, stai solo dicendo al sistema operativo: guarda che questo spazio è libero, no, però quei dati lì ancora continuano a esistere lì, quindi no, cancellare, cioè ci sono dei modi per cancellare veramente, però cioè cifrare è proprio cioè cifrare è facile e risolve 15.000 ragioni di me. Sì, cioè con la cifratura non esiste un modo, tipo il francese per esempio, una dei, perché noi abbiamo fatto, varie persone hanno, e poi queste cose, cioè, se una roba del genere esiste, c'è proprio una grossa comunità che si occupa di sicurezza, cioè che è foraggiata non da noi stronzi, cioè non è che sono con le pezze al culo, cioè insomma ci sono dei soldi che girano all'interno di questo settore, tanti, l'ipotesi su questa roba qui è che lui appunto ha, questa era una che la cosa che avevo detto prima, cioè che quel computer fosse già stato utilizzato, non cifrato, poi la cifratura fosse stata attivata in un momento successivo senza la formattazione del disco. Questa era una delle ipotesi, e l'altra ipotesi è che loro sono riusciti a trovare la password in qualche maniera, no? Perché anche quello è uno dei, cioè se io vado in commissariato e il PIN lo faccio così, oppure il PIN di accesso al mio telefono è solo l'impronta, no? Che è una cosa che io sconsiglierei, cioè di avere dati biometrici come sistema di accesso a un dispositivo, che sia il riconoscimento facciale, l'impronta, quello che volete, la voce, mi sembra, come dire, una roba veramente scema, perché non si può cambiare, cioè non è che se me la fregano poi io dico cambio l'impronta, no? Invece una password è una cosa che posso sempre modificare nel tempo, invece quello proprio ormai è così e sono fregato. E poi c'è, io ce l'ho qui, la mia password ce l'ho qui, capito? Cioè, è facile. Però immagino che in quel caso lì potrebbe essere anche o che erano magari delle immagini, foto, così, che... Appunto una telecamera. No, le apre con un software che si crea la miniatura, no? Ma nel disco non è piaciuto. Può essere una cosa. No, stavo pensando, cioè, appunto, l'altro metodo ipotizzato che hanno utilizzato per accedere al disco cifrato di sto francese, e che sono riusciti appunto a estrapolare il PIN in un'altra maniera, no? E ci sono varie opzioni, tra cui anche le ambientali, che può essere anche il rumore dei tasti.